Il secondo paese più grande della Terra, il Canada condivide il confine terrestre più lungo del mondo con gli Stati Uniti a sud e a nord-ovest. In uno scenario paesaggistico unico e incredibilmente vario, comprende vaste foreste boreali, le imponenti montagne rocciose, le praterie piatte, le frastagliate coste atlantiche e pacifiche e la tundra artica. Questa diversità geografica si traduce in una ricca varietà di flora e fauna. Da mare a mare, dal latino a mariusque ad mare, un motto che circonda lo scudo simbolo di questa nazione. La cultura canadese è influenzata dalle sue radici britanniche e francesi, che sono anche le sue due lingue parlate. Simbolo della cucina quebecchese e canadese, la poutine è un piatto semplice a base di patatine fritte condite con cagliata di formaggio e un ricco sugo di carne, con varianti che spaziano dal fast food alla gastronomia. In un'ode al massimalismo dei sapori, la poutine viene reinventata in versione panino caldo con bistecca. L'arrosto di controfiletto viene affettato e condito con crema di rafano, cagliata di formaggio e salsa per un piacere estremo. In Canada, a partire dagli anni 60, sono stati inventati diversi cocktail. Alcuni sono rivisitazioni di altri, come il Chaser, variante del Bloody Mary. Unica differenza è che il pomodoro è aromatizzato alle vongole. Capite bene come gli accostamenti discutibili hanno portato la nostra ricerca a rifugiarci ancora una volta nel caro e amato gin, ma di produzione canadese. Con un'ottima fonte di ispirazione abbiamo selezionato quattro cocktail più fattibili. Ok che dobbiamo immergerci nelle culture locali, ma a tutto c'è un limite. Ci vogliono circa $23 canadesi per accedere alla terrasse Dufferin e godere di un'ottima cena con ottima vista. Un proverbio locale dice: Start very small. Inizia dalle piccole cose. Grazie per l'ascolto.